Salvadanaio. Buongiorno, ultima puntata di Salvadanaio per quel che mi riguarda. Da lunedì tornerà Deborah Rosciani e cerchiamo nell'ultima puntata di prendere in esame qualche numero che riguarda una sorta di guerra civile che evidentemente caratterizza l'Italia rispetto agli altri paesi, ed è la guerra condominiale. Pensate che 3 miliardi di euro vengono spesi ogni anno per le liti condominiali, che addirittura qualche volta finiscono in tragedia. Il 3,5% dei delitti in Italia matura nei rapporti di vicinato. Ora, senza entrare in questi casi estremi, sono 13,5 milioni le famiglie che in Italia vivono in un condominio. Immaginate dunque quante persone possano essere toccate da questioni che poi portano a dei contenziosi piuttosto aspri, se si è riusciti a calcolare che la litigiosità degli italiani non è uguale in Europa. Noi litighiamo in condominio 2 volte di più rispetto alla media dell'Unione Europea, da 10 a 20 volte di più degli scandinavi, che forse vivono in case molto distanziate l'una dall'altra, chi lo sa. Poco meno di 5.000 contenziosi ogni 100.000 abitanti. Litigano più di noi i russi. In Russia si litiga più che in Italia, questo pesa sull'arretrato dei processi civili, e quindi vogliamo capire se l'istituto della mediazione, che è entrato in vigore con l'obbligo di rivolgersi al mediatore prima di andare davanti al giudice per le questioni di vicinato da marzo, quindi sono molto poche le statistiche a disposizione, porterà a un vero giro di boa in questo campo. E ringrazio per il suo tempo Ciro Lenti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Ciro, mentre io spero di avere dagli ascoltatori invece degli esempi controtendenza, qualcuno che scriva per segnalarci un atteggiamento che ha tenuto di fronte a un contenzioso, un atteggiamento positivo, un comportamento, un intervento che poi sia terminato senza bisogno di ricorrere al giudice. Queste sono le segnalazioni che gradiremmo molto oggi. 349-238-6666, questi sono i messaggi SMS, li potete inviare a questo numero. Se volete raccontarci la vostra esperienza invece, 800-24-0024, questo è il telefono. Dicevamo, Ciro Lenti, lei è il presidente della Società Italiana di Conciliazione e di Arbitrato. Ma passare da un giudice civile, diciamo così, a un mediatore è un passaggio semplicemente tecnico? Io direi proprio di no. Questo è un passaggio epocale, vorrei dire, semplicemente perché quando colui che ha una controversia cerca di risolverla in mediazione, diventa l'attore principale. Cioè, il mediatore di fatto non è un arbitro, non è un giudice, facilita, aiuta le parti che sono in controversia, che sono in conflitto, a risolvere la controversia. Per la prima volta in Italia il singolo cittadino può incontrare l'altra parte e cercare di risolvere questa controversia aiutato da qualcuno. Cioè, non è qualcuno che impone, non è qualcuno che ti sollecita, ma qualcuno che ti aiuta a capire effettivamente quali sono gli elementi essenziali e ti aiuta poi in realtà ad eliminare l'aspetto anche emotivo, che ovviamente il pathos, l'elemento nelle liti condominiali, le liti di vicinato, l'elemento emotivo, l'elemento emozionale è estremamente importante. Da un altro punto di vista però bisogna tenere presente che proprio gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria sono quelli che possono aiutare chi ha una controversia nel condominio a rimanere o a coltivare addirittura il rapporto una volta continuare ad avere un rapporto sociale una volta che ha risolto la controversia. Quando due persone si rivolgono prima all'avvocato e poi al giudice, poi è difficile che una volta che si incontrano sul pianerottolo si salutano e scambiano due parole. Quando le parti vanno in mediazione, questo invece è un pochino più facile. Non dico che Lei ha qualche numero per sostenere quanto sta affermando? Perché alcuni, anche tra i nostri ascoltatori, la stanno già tacciando di eccesso di ottimismo. Noi abbiamo dei numeri. Allora, come lei diceva poc'anzi, le statistiche per le controversie condominiali effettivamente ancora non ne abbiamo. No, perché l'obbligatorietà è entrata in vigore a marzo 2012. Subito c'è stata, lo vogliamo dire, c'è stata una causa. Noi abbiamo risolto più controversie condominiali, e guardate che nel condominio, quando la controversia coinvolge un condomino con il condominio e interviene l'amministratore di condominio, noi possiamo avere in questo periodo breve, le posso dare che il nostro score è il 100% delle risoluzioni. Ora stiamo 100% parlando delle risoluzioni. Sì, quando interviene l'amministratore, ripeto, i nostri numeri non fanno statistica perché il periodo è estremamente limitato, però quando interviene l'amministratore, nel nostro caso nel 100% delle situazioni si è risolta la controversia, perché l'amministratore lo fa già di mestiere, il mediatore. C'è un mediatore in pectore, dice lei. Assolutamente, io credo che... Non tutti, altrimenti non saremmo arrivati a queste cifre di controversie e addirittura di controversie pendenti che finiscono davanti al tribunale, lasciando perdere i litigi, quelli che si concludono così. Ma perché sono così poche fino a questo punto le mediazioni? Si sta aspettando anche una sentenza della Corte Costituzionale. Di cosa si tratta? Lo scorso aprile il TAR del Lazio ha rinviato, ha sollevato una questione di legittimità sulla legge 28 che ha introdotto la mediazione civile in Italia. Quindi il ricorso è stato presentato in Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, l'udienza è fissata al 23 di ottobre prossimo. Un buon inizio per l'avvio delle mediazioni obbligatorie in condominio. Si è finiti subito di fronte al giudice. E che giudice il 23 ottobre? Chi è che ha presentato questa richiesta di costituzionalità per la verifica? La richiesta l'ha presentata in sigla OUA, che è un'associazione, un'organizzazione unitaria dell'avvocatura. Che sorpresa! Grazie, continueremo poi con lei, e ancora una volta interessi personali o diciamo così di categoria che si sommano a quelli che potrebbero essere gli interessi comuni. Ma l'atteggiamento giusto qual è per queste mediazioni, per queste conciliazioni? Bisognerebbe forse subire, cioè stando alle ultime cronache, anche solo Agostane sarà stato complice il caldo, però io vedo qua scorrendo dei titoli: il cane abbaia, scoppia la lite, due famiglie finiscono in ospedale, si sono presi a pugni e a calci, un altro tenta di accoltellare il vicino davanti alle figlie. Ha tentato di accoltellare un vicino di casa nell'androne del palazzo, si diceva del sorriso sul pianerottolo. L'aggressione sarebbe motivata da rancori per vecchie liti condominiali. Pensa fossero state recenti, cosa gli faceva. L'anziano, perché poi è un anziano che si è armato, ha teso la vittima, che ha 41 anni, e ha cercato di colpirlo al ventre con un coltello a serramanico. Lite di condominio, stiamo sempre scorrendo solo alcuni titoli agostani, si conclude con un pestaggio, un'intera famiglia, in questo caso qui siamo a Lucca, 3 giorni fa un'intera famiglia è finita all'ospedale e poi un altro a Livorno ha ferito il vicino con il coltello. Ci fermiamo qui perché altrimenti veramente gli ultras e le liti da stadio sono cosa da dilettanti rispetto a quello che accade negli androni dei palazzi italiani. 800 24 00 24 per segnalazioni positive. Ieri ci scrive Antonio da Torino: sorridevo quando parlavate di badante di condominio o spesa condominiale fatta insieme. Ieri infatti l'esperienza di confabitare che ci raccontava come a Bologna queste esperienze stiano andando per la maggiore, si compra l'ingrosso, tutti i condomini, così costa della spesa si riducono fino al 50%, ci si dividono le spese delle badanti tra più famiglie. Sono percorsi che potrebbero essere emulabili. O sono ottimista? Lo chiediamo al segretario nazionale di Assocon, cioè l'Associazione Italiana dei Condomini. Avvocato Cirla. Buongiorno. Buongiorno. Ci potrebbe essere un'inversione di tendenza in questa litigiosità? Ci siamo conquistati il podio anche lì noi italiani. Ma guardi, io sinceramente ho una visione del condominio un po' diversa, non è così drammatica come viene descritta, nel senso che nel condominio si vive normalmente e purtroppo accadono a volte determinati fatti, quelli che lei accennava. Che e sono cifre però, sono sì, cifre, diciamo, sono fatti riportati dai giornali, no, non è letteratura. Sì. Sono le eccezioni però, perché normalmente il condomino vive nella sua casa pacificamente, quindi il condominio assolutamente non deve essere qualificato come l'inferno. C'è il contenzioso, ma il contenzioso, teniamo presente che il maggior numero di contenziosi non sono tra condomini contro condomini, ma è condomino contro il condominio. In che senso? Oggi le spese condominiali influiscono sensibilmente sul bilancio della famiglia e quindi il condomino sta molto più attento alle spese condominiali. Ecco che la maggior parte dei contenziosi sono impugnazioni di delibere assembleari contro i consuntivi, contro le spese straordinarie. Non sono d'accordo. Quindi non c'è il braccio di ferro, non so, sull'uso degli spazi comuni. Certamente c'è. Sugli animali domestici. Ma è minore rispetto all'aspetto economico. Sicuramente ci sono. I vicini litigiosi ci sono. L'uso dell'ascensore, gli animali in condominio, gran parte del contenzioso sono per questo. Gli il tagliaerba alle 6 del mattino ci segnalano. No, i rumori. Le emissioni dei bar, del vicino di casa che parla a voce alta, che grida in casa, sicuramente ci sono, ma il contenzioso vero è quello sull'aspetto economico del condominio. Non sono d'accordo, dicevo, sul fatto che quando interviene l'amministratore la conciliazione c'è. Anzi, io ritengo, e come esperienza dell'associazione, che spesso sia l'amministratore la causa dei contenziosi, e mi spiego. Nel momento stesso che l'amministratore è vero che dovrebbe svolgere un ruolo di mediazione, di collaborazione con i condomini, ma così non è, non possiamo illuderci, non dobbiamo illuderci che l'amministratore sia la figura ottimale che risolve i problemi del condominio, anzi spesso li crea. Basterebbe più educazione, ci dice un ascoltatore, basterebbe quello. Ma poi perché tagliare l'erba alle 6 del mattino? Cioè adesso, siccome c'è stato segnalato un procedimento civile per questo tipo di rumore, ho capito, ma ci sono altre cure per l'insonnia, io credo, no? Che accendere il tagliaerba suscitando l'ira di tutti quelli che stanno dormendo. E poi ci si può parlare, si può ragionare. Penso funzionino molto come calmiere degli animi quelle iniziative, anche molto adottate all'estero, ma in Italia prendono sempre più piede, delle cene in comune, dei barbecue in comune, delle iniziative con una cadenza regolare che aiutano i condomini a conoscersi l'un l'altro. O pensa che sia un percorso troppo informale, avvocato Cirla? Siamo in una figura idilliaca del condominio, come poc'anzi si diceva. Prima diceva che eravamo apocalittici, ora siamo diventati idilliaci. No, attenzione, idilliaco il fatto di trovare la solidarietà tra i condomini, quello è il condominio intelligente. nel quale tutti aspiriamo, si diceva prima i servizi in comune, le spese in comune, è il condominio intelligente, ma è una rarità, è un'eccezione. Non possiamo pensare che nelle grandi metropoli ci sia il condominio, mi passi il termine, intelligente, perché la gente non ha tempo. La gente non ha tempo di vivere nel suo condominio. O ne ha troppo, perché bisogna avere un sacco di tempo libero per perdersi a fare cause civili per qualcuno che ha messo lo stendino sul balcone e i suoi panni sgocciolavano al mattino. Forse c'è una scarsità di tempo per dialogare, ma ci sono persone che hanno troppo tempo libero. Avvocato Cirla, torniamo da lei tra pochissimo perché voglio dare voce anche a chi aspetta in linea. Andiamo a Genova. Pronto Gianni, buongiorno. Sono qui, buongiorno. Senta, ho ascoltato anche quello che diceva l'avvocato Cirla, cioè che spesso la colpa non è dei condomini, ma dell'amministratore. Infatti io ho avuto a che fare da 6 anni, io ho 77 anni, ho negozio sin dall'83 dove in questo momento sto parlando. Dunque, sono diventato proprietario nel 2006. Un anno prima del 2006 hanno fatto un'assemblea, io inquilino. L'assemblea diceva c'è un distacco di proprietà del condominio. Scusi, veniamo al punto. Qual è l'argomento del suo contendere con l'amministratore? Scusi Gianni. Che sì, fatto un certo lavoro, cioè hanno messo una catena con due macchine davanti al negozio, con una catena che chiude e custodisce bene due macchine, ma non c'è il passaggio per il pedone, per la signora che ha un bambino con la carrozzina. Non c'è questo passaggio. Beh, io spero che questi signori così educati e intelligenti ci stiano ascoltando e aspetti, non finiscono. Aspetti, le dico. Dunque, è 7 luglio 2006. No, ma non possiamo qui purtroppo seguire ogni causa passaggio per passaggio. Ecco, abbia pazienza. Sono sei anni che ho impiegato tre avvocati, per il 3 luglio, 3 maggio era stato fissato tramite la Camera del Commercio di Genova l'incontro fra il giudice o il signore. Insomma, una mediazione. La mediazione, perfetto, chiesta per la seconda volta. Questo signore, amministratore, non si è presentato. Questo succede spesso. Gianni, grazie per averci segnalato un caso che purtroppo non è unico. Quando non si presenta l'altro, come va a finire? Cioè la mediazione non può procedere, avvocato Cirla. Certo, questo è un problema che si sta presentando nella mediazione, nel senso il potere che ha l'amministratore di andare davanti al mediatore. La mediazione è praticamente un preambolo del giudizio, quindi gli stessi poteri che ha l'amministratore di instaurare un giudizio, di essere convenuto in giudizio, ce l'ha in mediazione. La cosa che si sta verificando e che peraltro sta formando oggetto di discussione in sede di riforma della normativa del condominio, proprio l'aspetto della mediazione, è quello di vedere qual è la possibilità per l'amministratore di partecipare. Ovvio che l'obbligo dell'amministratore come rappresentante del condominio è quello di partecipare alla mediazione, perché sappiamo che la mancata partecipazione cosa può comporta? Avere conseguenze negative sull'eventuale giudizio, il giudice che vede. Se non lo si può obbligare però... attenzione, non lo si può obbligare, ma l'amministratore ha il dovere di rappresentare il condominio, quindi lui comunque deve presenziare. Quindi sinceramente e in estrema sintesi il consiglio che noi diamo agli amministratori che si rivolgono a noi come pareri è quello di comunque partecipare e poi subito convocare l'assemblea per rendere tutti i condomini della partecipazione alla mediazione. Rimanga con noi avvocato a Varese, buongiorno, c'è Massimo. Pronto? Sono Massimo, sì. Mi occupo di amministrazione immobiliare, per cui parlo da un palcoscenico che è specifico. Posso dire che la conflittualità secondo me rappresenta due caratteristiche. Uno, la conflittualità è più presente nelle realtà condominiali piccole. Ah, secondo lei più in quelle piccole che nelle grandi realtà? Pensavo molto grandi perché tende a isolarsi, perché riduce il peso del soggetto. Per un condominio di 4 condomini c'è una maggior conflittualità, c'è un rapporto più stretto, quindi quello che lei diceva idilliacamente di incontrarsi e condividere molto spesso magari sarebbe il tavolo dell'odio. Ecco. Mamma mia. E poi sinceramente Nella mia esperienza, ormai sono 20 anni che faccio questo lavoro, devo dire che sono d'accordo con l'avvocato Cirla che può dipendere dall'amministratore, perché una buona gestione antecedente con una buona preparazione tecnica, una buona conoscenza normativa nelle delibere previene l'aspetto di conflitto. Certamente può esistere il problema del conflitto tra residenti per piccole problematiche, qua sta anche a metterci un po' di impegno e a cercare di affrontare i problemi dialogando con la gente, perché oggi il problema vero per me è anche un problema di dialogo, la gente non parla più. Sì, quindi si sta molto di fronte a dei terminali, poi è difficile parlare con il vicino di casa che si incontra sul pianerottolo, come è stato detto, o sulla scala. Quando si dialoga, quando ci si incontra, quando si hanno i figli nella stessa scuola, alla fine poi è difficile anche portare rancore. E poi un'altra soluzione che ci segnalano i nostri ascoltatori al 349-238-6666 è molto efficace, provatela. Provate a chiedere scusa. Una volta che sbagliate, provate a chiedere scusa. Pare sortisca effetti miracolosi. Con noi c'è il vice direttore del Resto del Carlino. Buongiorno Massimo Gagliardi. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Lei un giorno, parlando di condomini, sul suo giornale ha scritto "non se ne può più". A cosa si riferiva? Si riferiva a dei casi veri. Non se ne può più di sentire la gente litigare, e citavo un esempio molto concreto di stagione, diciamo così, cioè si parlava di condizionatori d'aria. Allora, la lite era la seguente, se abbiamo un minuto posso raccontarvela, anche meno. Certo, cioè, anche perché immagino sia di interesse comune, nonostante il caso specifico che lei adesso ci farà, cioè si litiga sul rumore del condizionatore, dico bene? È un cortiletto interno di 4 metri per 4. Un condomino decide di installare un condizionatore d'aria. Colui che si affaccia sul cortiletto, il proprietario dell'altro appartamento, che è anche proprietario del cortiletto, aveva già installato un condizionatore d'aria senza che il primo condomino avesse opposto qualsiasi resistenza, rifiuto, ricorso, niente. Ha detto va bene, lo metta pure. Quando è stato il turno dell'altro decidere di stare al fresco anche lui, ha detto assolutamente non se ne Ma come l'ha motivato? Non se ne parla perché? Perché è rumoroso, no? Era più rumoroso del suo. Qual è la... sarebbe troppo semplice. E qui il bello, non se ne parla perché la sua aria condizionata, cioè ciò che il condizionatore sputa fuori, è aria calda e quindi mi riscalda il muro dell'appartamento. Danno biologico, capisce? Scusi. Beh, da ridere se non si fosse da disperarsi, una cosa allucinante. Allora che succede? Che viene chiamato l'amministratore di condominio perché gli operai di quell'altro stavano installando, non si fermano e dicono noi abbiamo l'autorizzazione del proprietario, viene chiamato l'amministratore di condominio, ma non basta, perché mentre deve ancora arrivare il proprietario di questo appartamento vengono chiamati i carabinieri e i vigili urbani. Ma è una barzelletta, scusi, adesso so che lei ha molto senso l'umorismo, sembra veramente uno di quegli affreschi dell'italietta di una volta, cioè nel 2012, carabinieri e vigili urbani. Allora, arriva il proprietario e dice, scusate, è scoppiata la guerra. Per un condizionatore chiamiamo l'arma dei carabinieri, per un delitto ci chiamiamo l'ONU. Sì, ma qual è la soluzione secondo lei? Certo, lei non è un tecnico, è un giornalista, però è il vice direttore del Resto del Carlino. Abbiamo interpellato ovviamente anche un civilista, il quale dice... ma a parte il caso specifico, la soluzione secondo lei dal punto di vista dell'approccio a questo tipo di questioni è uno che bisogna insegnare alla gente a tollerare, bisogna insegnare a parlarsi. Questa è la prima cosa, così come sentivo prima si parlava di pranzi, di condomini eccetera, queste esperienze qua da noi in Emilia, Bologna eccetera sono molto frequenti e molto positive, ma il punto principale è l'atteggiamento dell'amministratore di condominio. Mi spiego. In quella vicenda, ed era il motivo per cui ho scelto questa lettera e risposi, l'amministratore di condominio di fatto parteggiò per un condomino, laddove la legge diceva chiaramente che ognuno, se non ci sono problemi, può installare il condizionatore. E questo è il guaio, cioè l'amministratore deve mediare, deve cercare di comporre la lite. Ma se l'amministratore dice: ah, guardi, io non voglio sapere niente, e se ne lava le mani, è peggio per tutti. Grazie per questa testimonianza che ci arriva dal vice direttore Arresto del Carlino. Parlava di aria condizionata, di caldo. Il tempo nel frattempo è cambiato, anzi andiamo a sentire il meteo. Salva Danaio. 37 minuti dopo le 12, al microfono Irene Zerbini, ancora una volta buongiorno. Se avete acceso da poco, noi immaginavamo il condominio come un posto dove può sbocciare un'amicizia duratura, addirittura l'amore a volte. Invece volevamo chiedervi anche se riconoscete questa scena che molti di voi hanno visto in TV. Sera. Buonasera. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta. Già. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta! Insomma, non chiude mai l'ascensore! I rumori che sentite di sottofondo sono di una mitica scena di un film con il protagonista Paolo Villaggio, il ragionier Fantozzi, e la riunione di condominio, diventato un vero e proprio spaccato della realtà italiana. Buongiorno, andiamo a Milano da Silvana per vedere se è veramente sempre così. Silvana. Allora, è molto divertente comunque. No, non è così, nel senso che nel nostro appartamento, io abito a Milano 2, abbiamo convissuto con tutti gli inquilini quasi veramente in perfetta armonia per 40 anni. E poi è stata venduta una casa e è venuto un inquilino nuovo. Dopo neanche un anno ricevo una lettera dall'amministratore, una raccomandata, dicendo che dell'acqua dal mio terrazzo era caduta su quello di sotto. Dato che noi avevamo questo friendship fra tutti noi, mi sembrava strano che questo nuovo inquilino scrivesse addirittura per un po' d'acqua all'amministratore. Allora, cioè, lei cosa si aspettava? Che bussasse alla porta e le dicesse: ecco, guardi, stia attenta, infatti, c'è la tubatura che perde. Garage, sì. Dove non mi salutava mai, e gli ho detto: ma scusi, è lei che ha scritto la lettera? Sì, Perché abito sopra di lei, bastava che lei mi dicesse un bigliettino, qualcosa, io con un gran sorriso, dico: avremmo risolto tutto, qualsiasi problema sì. Lei ha, non si preoccupi, io cambio quella foriera, non ci sono più problemi. Se lei ha un problema me lo dica. E così già si è stabilito una specie di soluzione. Dopo un'altra volta... E quindi avete risolto e definito sì, tutto con amicizie e sorrisi. Per dire, ha pianto 2-3 ore la notte, l'indomani gli ho fatto trovare una bottiglia di whisky dicendomi scuso per il disturbo arrecato. Quindi lei più che la mediazione sta incitando al bere, cioè questa è la strada da percorrere in Italia. Però è molto bello questo gesto. Adesso la bottiglia di whisky è l'oggetto da lei scelto, Silvia, altri mettono una pianta, rendendosi conto di aver disturbato quella notte per una situazione particolare, perché la vita è complessa, ci sono appunto i nipoti che vengono a dormire piuttosto che vicini rumorosi perché un giorno per una volta si decide di festeggiare qualcosa di particolare. Il gesto, l'attenzione verso l'altro porta sempre a delle soluzioni non conflittuali. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Ci Pronto, porti la sua testimonianza? Lei da che parte sta, tra gli apocalittici o gli idilliaci? La vita in condominio è questo paradiso o questo inferno? Io non vivo in condominio, io sono un mediatore. Ah, lei mediatore ha scelto di vivere in una casa singola. Sì, in una casa singola. No, io volevo portare la mia testimonianza, sì. Che chiaramente io credo nello strumento della mediazione, altrimenti non avrei investito certo. Tempo e energie. Devo constatare che purtroppo, nonostante l'obbligatorietà, la mediazione raramente si svolge. E questo perché, secondo lei, è cosa attribuibile? Visto che ci sarebbe un risparmio sostanzioso per la giustizia civile, tra l'altro, diminuirebbero i fascicoli e le spese di tutti noi se i tribunali non fossero così intasati per queste questioni. la cui entità abbiamo sentito. Abbiamo sentito un campionario durante questa trasmissione comunque molto indicativo, perché per questo si va veramente davanti al giudice per le questioni. Il 75,4% delle liti che finiscono in tribunale riguardano gli spazi comuni, l'utilizzo degli spazi comuni. Per esempio, un furgone parcheggiato al centro del cortile. I rumori giorno e notte sono un'altra sostanziosa fetta di questa litigiosità. La manutenzione straordinaria del palazzo, dicevamo prima, le questioni economiche, ma non sono al primo posto. Al primo posto sono proprio questi contenziosi su ciò che si ritiene debba essere usato in un certo modo o meno. Ci faccio un esempio positivo possibilmente, Daniele. Lei che è un mediatore, ha visto delle situazioni che si sono risolte, quelle poche che ci sono, visto che anche lei accusa una scarsa incidenza dell'istituto della mediazione fino a questo punto. Sì, le situazioni, devo dire che la maggior parte di quelle che si presentano vengono risolte, e vengono risolte anche molto velocemente. Di fronte a un primo sfogo delle parti, a volte in comune, a volte da soli, diciamo tiriamo fuori tutto il male, tutto il rancore, dopodiché ci si siede intorno al tavolo con calma, si verifica che effettivamente il problema è facilmente risolvibile, spesso e volentieri la soluzione l'avevano già di fronte, ma non si vedeva perché erano accecati dal pathos, diceva il nostro Ciro Lenti. Grazie a Daniele, mediatore. E dunque, prima bisogna lasciarli sfogare, concorda lei che è presidente della Società Italiana di Conciliazione e di Arbitrato? Assolutamente sì, anzi questo è, diciamo, il passaggio, questa è la novità. Tante volte, come diceva, se non ho scritto male, Silvia, tante volte il condomino non è abituato a affrontare l'oggetto del conflitto, cioè non è abituato a dire, posso andare a bussare e chiedere come mai è successo questa infiltrazione d'acqua oppure c'è questo rumore. In mediazione noi facciamo questo, la prima cosa che facciamo quando le parti sono in mediazione, invitiamo le parti a rappresentare i fatti, raccontate i fatti come li vedete voi. In realtà noi diciamo, raccontateci la vostra verità. Quante sono le cause pendenti per questioni condominiali in questo momento, secondo le vostre statistiche? Noi non, guardi, io sinceramente non ho questo dato, però diciamo che le cause civili pendenti sono 6 milioni e circa 600 mila. In totale, qui stiamo parlando di un totale. Per la casistica specifica di litigio in condominio, che stime avete? Ma non abbiamo stime, io dico questo, le 14 aree di competenza della obbligatorietà, si stima che ogni anno un 500.000 cause provengono da queste 14 aree dove ci sono le controversie condominali. Si presume che incidenti stradali e condominio rappresentino una maggioranza importante di controversie, però queste 500.000, sì, per incidenti stradali naturalmente si intende tutte quelle pratiche che coinvolgono l'operato di RCS assicurazione. A proposito di strada, tra poco torneremo a parlare di condominio, vediamo come va il traffico. Salvadanaio. Noi abbiamo molto meno di mezz'ora, vediamo se riusciamo a dare la parola a tutti voi che avete chiamato, 800 24 00 24, rapidissimi. Anna, buongiorno. Pronto? Sì. Mi sente? Sì, sì, sì, vada. Io vorrei denunciare l'impotenza delle istituzioni di fronte a un fatto come questo. Mia sorella è stata 3 anni, sì, con una perdita in bagno, sì, con un telo e muffa e secchio, perché il condominio di sopra sosteneva che non era il suo bagno, ma che erano le parti comuni a essere rotte, che non era vero. È andata dai vigili del fuoco, all'ufficio di igiene, dai carabinieri, non c'è stato nessuno, ha potuto fare nulla, è andata dal giudice di pace, nulla, ha dovuto attendere i tempi della giustizia civile. Il giudice, quando ha firmato l'ordinanza per far entrare gli operai, per fare la riparazione, ha chiesto anche scusa, ha detto lo so, i tempi nostri sono questi. Cioè, io dico, è mai possibile che nessun ente, nessuna istituzione può intervenire in questi casi senza aspettare i tempi biblici della nostra giustizia? Grazie, domanda più che legittima. Ciro Lenti, come avreste fatto con la mediazione a convincere con la mediazione, la norma parla che le controversie si devono risolvere in 4 mesi. Normalmente le controversie si concludono con un accordo o con un mancato accordo intorno ai 65-70 giorni. Le controversie condominiali, a meno che non ci si trovi di fronte a piccoli condomini dove è più facile convocare assemblee, ci vogliono 90 giorni, da 90 diciamo a 150 Beh, giorni. Ben diverso di questi. Beh. Anni della giustizia civile. Angela, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Io ho proprio il classico caso di un'amministratrice che mi sta facendo di tutto e di più. Purtroppo ce l'ho in 2 condomini, di cui uno ho una casa e la devo vendere perché ho una guerra con gli altri condomini che aspettano solo di mettermi le mani addosso e l'hanno già fatto, purtroppo non avevo tempo. Oh, come l'hanno già fatto, signora? Anche lei è vittima di questi reati di cui leggiamo sui giornali? Una causa su una cosa che non dovevo assolutamente pagare, su delle metrature che non c'erano della casa. Quindi questione di denari, come veniva segnalato all'inizio. Sì, esatto. Alla fine ho chiamato CTO, ho fatto queste cose perché mi ha mandato a sequestrare i mobili del negozio. Finito quello, non li ha voluti i mobili, ho pagato, finito di pagare, ancora dopo 3 mesi mi hanno denunciato per causa penale perché ho danneggiato i mobili, tutto questo diretto dall'amministratrice. Quindi lei non ha mai pensato all'istituto della mediazione per conciliare tutto? Sto facendo anche quello perché ne ho questo ancora e nell'altro negozio c'era tutte infiltrazioni di acqua che mi hanno fatto entrare. E speriamo che con la mediazione riesca a cogliere il risultato, perché altrimenti la vita diventa un calvario, non vale la pena. Avete ricordi positivi? E avete, non so, qualche condomino che ha ispirato poi un vostro comportamento, che vi ha fatto riflettere su qualcosa che avete fatto, così da farvi anche tornare indietro rispetto a una certa ostinazione? Readino, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa. Buongiorno, allora, purtroppo devo invitarla a essere rapida. La ringrazio dell'ospitalità. Io sono proprietario di un appartamento in Lecce. Sì. Dal 1993. Abbiamo trascorso circa 13 anni di quiete, quando nel 2006, dicembre 2006, la nostra vita è cambiata completamente. Mia, di mia moglie e di mia figlia. Perché al terzo piano sono venuti ad avviare delle persone che hanno purtroppo portato a delle cose, diciamo, molto molto gravi di salute. Tengo a precisare che mia moglie ha subito un intervento di bypass, di 4 bypass. Ma questo mi spiace moltissimo, ma perché dice che addirittura l'arrivo di un nuovo inquilino ha fatto cambiare la vita? Perché non c'erano momenti di pace. Dalla sera intorno alle 23-24 fino alle 2 di notte eravamo presi da rumori incessanti, da spostamento di mobili. Risolto il problema ora o no? Il problema niente, noi per risolvere il problema abbiamo più volte citofonato al campanello del nostro condomino dicendo che volevamo dormire. Il che, siccome si è portato diverse volte, siamo stati denunciati perché abbiamo arrecato fastidio a lui. Beh, incredibile. Il giudice ci ha assolti, adesso hanno proposto appello perché non gli piace. Incredibile. Grazie Readino per questa testimonianza terribile, naturalmente, ma speriamo che si possa arrivare facilmente. Si possa arrivare facilmente a una conciliazione se questo tipo di situazioni, per esempio, vengono affrontate in presenza anche degli altri, di tutta l'assemblea condominiale, come ci segnalano alcuni che sono ricorsi a questa strada. Chiamare l'assemblea condominiale proprio il giorno in cui arriva il mediatore, così che tutti possano contribuire a calmare gli animi, a far ragionare chi si è allontanato dal buon senso. Ora io voglio dare il buongiorno, il benvenuto a una persona particolare, si chiama Marco Missiroli, E Marco Missiroli in questo momento forse è impegnato in una lite condominiale, perché mi dicono non c'è, nell'attesa andiamo da Ferdinando. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno. Senta, io sulla questione della litigiosità ritengo che gli amministratori spesso e volentieri ci mettano tanto del loro. Due esempi. No, ci proponga una soluzione. Ci proponga un approccio da tenere che può portare a dei risultati. Io non ho questa capacità di dare questa. Quindi ritengo, non ha esperienze positive lei da portare oggi. No, esperienze positive. Ritengo che si debba cercare il meno peggio, non il migliore, il meno peggio. Io abito in una casa a Milano dove ho un amministratore che ha fatto un'assemblea condominiale a marzo e dopo svariate richieste telefoniche via email, l'ultima per raccomandata, non ho ancora ricevuto il verbale di assemblea. C'erano da discutere cose importanti, io non ho potuto partecipare perché ero impegnato per lavoro, ma costantemente lui non mi manda il verbale di assemblea, e questo è un aspetto. Il secondo aspetto, ho una seconda casa al mare dove 6 anni fa abbiamo fatto dei lavori per il rifacimento delle facciate e il rifacimento delle ringhiere. E qual è il problema lì? Sì, il mio vicino si è rifiutato perché l'amministratore dice che non può imporgli di rifare la ringhiera perché è una diciamo una spesa sua privata personale. Io è bloccato. Io sono bloccato, ho la ringhiera che ha dei problemi, che deve essere messa a posto. Lui si è preso la briga di rinforzarla con una struttura mobile che viene usata nel cantiere. Ferdinando, grazie, sento moltissima amarezza nel racconto di Ferdinando, e è comprensibile, insomma, tante volte certi comportamenti, certe ostinazioni sembrano dettati semplicemente dalla voglia così di fare un dispetto all'altro. Eppure il condominio non è sempre un ring da pugilato. E dicevamo, Marco Missiroli ha ambientato il suo libro in un condominio. Ebbene, lui è finalista al Campiello. Il libro si intitola Il senso dell'elefante. Il Campiello, tra l'altro, verrà seguito da Radio 24, da Alessandra Tedesco, sabato, cioè domani sera alle 21.05. Ci saranno delle storie bellissime da condividere, ma una è questa, di Marco Missiroli. Ciao, buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno, grazie. Un giovane scrittore italiano che ha scelto di ambientare il suo libro proprio in questo disastro di litigi che sembra essere il condominio. Ma perché? Perché tu, Marco, invece sei andato un po' contro tendenza? Perché il condominio può essere sia un disastro e un terreno di lotte, ma può essere anche e soprattutto un momento di solidarietà. Ci sono stati condomini che hanno salvato la pelle di tante solitudini. E questo è quello che racconta il libro. Tante famiglie, 3 per la precisione, che si trovano in condizioni di solitudine abbastanza pesante e vengono salvati dagli stessi condomini. C'è una legge abbastanza importante. Ma è opera di fantasia o ti sei ispirato? No, con tutte storie vere. Mi ricordo che quando sono andato a vivere da solo un po' di tempo fa, mi sono trovato al secondo piano di un appartamento milanese, di un condominio milanese, anche abbastanza, diciamo, borghese. E credevo di trovarmi davanti a tante persone, come al solito, un po' milanesi, un po' chiuse. E invece la solidarietà, io ero in un momento di solitudine, mi ha salvato. Ti ha salvato la vita, grazie. Marco Missiroli, che seguiremo naturalmente, Il senso dell'elefante, finalista al Campiello. Purtroppo dobbiamo concludere, è una rivoluzione culturale quella della mediazione, speriamo che metta fine a questi litigi in condominio, a questi contenziosi e queste cause civili infinite. Da Irene Zerbini, naturalmente, un saluto. Oggi era la mia ultima puntata Salvadanaio. Lunedì torna Deborah Rosciani, parlerà di casa e dell'aspetto dell'IMU, altro capitolo importantissimo. Un saluto anche a Barbara Bianchi anche in redazione, in regia Matteo Comes, e a tutti voi che ci avete seguito il GR.